giornata della collera, soft forse la situazione in cui noi versiamo, in cui versa il mondo delle costruzioni, è anche peggiore, forse la parola non esprime quello che noi sentiamo. Se si crede ancora che il settore delle costruzioni sia il motore del sistema economico, allora che ci si renda finalmente conto che la recessione che noi attraversiamo è la più grave del dopoguerra. Ormai sono proprio necessarie, ma non a breve periodo, domani mattina, delle misure strutturali in grado di invertire la tendenza in atto. Bisogna dare risposta alla domanda abitativa, alla domanda infrastrutturale, alla qualità urbana. Tutto questo noi crediamo non tanto per dare una risposta al nostro mondo, e non solo, voglio dire, ma anche per avviare una crescita duratura del Paese e per ammodernarlo. Altrimenti io credo che se non si crede in questo mondo, a questo punto non si può credere in una crescita del Paese. Poi, piazza degli affari, noi rappresentiamo il 20% del PIL, per cui credo che siamo una categoria che a tutto campo, tutto il sistema, perché oggi non c'eravamo solo noi costruttori, c'era tutto il sistema delle costruzioni, possa rivendicare una presenza là dove si parla di affari. Sento una cosa, D'Albertis, ma poi concretamente voi che cosa chiedete? Perché è chiaro che l'IMU probabilmente non vi ha fatto del bene, ma in questo momento a me basterebbe evitare una manovra correttiva nel 2013 e l'aumento dell'IVA di un altro punto che scatterà in automatico, perché andremo a chiudere il 2013 ancora con un PIL negativo e quindi con un deficit che, non a meno che non ci sia una manovra correttiva, non manterrà fede alle promesse date. Da dove possono arrivare i soldi, ma soprattutto a che tipo di incentivi voi state pensando? Ma prima di tutto io credo che valga la pena forse di porre al centro della questione una questione, che è questa storica questione dell'invarianza del gettito, il tabù dell'invarianza del gettito. Io credo, e nel nostro settore lo dimostra l'antica norma del 36% diventata 44%, se si creano detrazioni fiscali, se si abbassano le aliquote e si fa emergere il sommerso e soprattutto si dà spazio all'economia reale, è chiaro che a questo punto, voglio dire, il gettito per lo Stato aumenta, non diminuisce. Credo che la norma sul 36% l'abbia ampiamente dimostrato da questo punto di vista.